Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Dopo la splendida trasmissione del solito grande Jerry, noi continuiamo nel solco musicale di questa nottata radiofonica e ovviamente un saluto da 451 Frammenti Sonori e in particolare da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Beh, stasera le voci sono perfette, dunque non ci sono i soliti sbilanciamenti, dunque ottimo. E dunque quindi partiamo. Inizi sempre con i soliti problemi tecnici, che però questa volta non ci sono. Non ci sono, dunque possiamo andare oltre. Siccome molti dicono però che siamo lo un dici, po' autoriferenti. No, beh, fa un'affermazione. Ah, però, non si poteva. No, perché poi si è capito che ricade. Allora torniamo, ripartiamo. Buonasera, 451 Frammenti Sonori riparte questa sera dopo la splendida trasmissione del solito grande Jerry e 451 Frammenti Sonori stasera sulle frequenze di Radio Città del Capo parlerà e affronterà, diciamo, il tema musicale che abbiamo elaborato dopo lunghe nottate insonni. Sì, a casa tua, a casa mia, e il titolo l'abbiamo sviluppato con il termine Free Electronics. Che cosa vuol dire? Free Electronics è una sorta di idea che ci è venuta nel nostro percorso ormai più che decennale all'interno della radio e della trasmissione 451 di sviluppare un tema legato appunto all'aspetto free dell'elettronica. Molti conoscono chiaramente tutto l'ambito dell'improvvisazione radicale, ma soprattutto nell'ambito elettroacustico, ma invece noi abbiamo pensato a un'idea connessa proprio allo strumento elettronico, dunque a tutti i marchingegni e a strumentazioni elettroniche, ma in termini elettroniche parliamo anche di strumentazioni vintage, dunque rielaborate, riutilizzate o addirittura originali dell'epoca, dove grandi autori, musicisti e compositori portavano avanti appunto una sperimentazione sul suono ma anche sulle stesse composizioni in un'ottica di improvvisazione, ma non soltanto legata all'idea che abbiamo di improvvisazione, è un'idea proprio free, come nel free jazz. Abbiamo un'idea proprio libera di libertà e di totale eclettismo all'interno dell'utilizzazione di strumentazione elettronica. La stessa cosa l'abbiamo declinata all'interno appunto di questo titolo, di questo percorso, e faremo un percorso che speriamo possa essere almeno indicativo di quello che noi abbiamo elaborato nella nostra mente malata. Sì, nella mente malata chiaramente c'è tutta la musica, tutta, insomma, un approccio sicuro alla musica free, che non è soltanto quella del jazz ma anche quella del free rock, quindi varie faccende che possono partire da Zappa, da certe psichedelie, da certe deformazioni che poi arrivano appunto fino all'elettronica. Sentirete infatti sia un approccio jazzistico e improvvisativo, sia un aspetto anche rock, quindi più tra virgolette aggressivo, più diretto, tutto mischiato. E probabilmente il primo personaggio con cui partiamo, Nate Young, Wolf Eyes in primis, come appunto personaggio che ha fatto, insomma, della combo americano una specie di banda di vandali neo primitivi e quant'altro. Grandi Wolf Eyes, veramente una di quelle formazioni che negli anni zero, quasi miracolosamente, facendo una musica estremissima, si è riuscito a ritagliare anche un aspetto di notorietà, insomma, rispetto a molte formazioni che anche questa sera, tra l'altro, qualcosina passerà del noise americano. Invece Wolf Eyes, insomma, molti li conoscono, eppure continuano a fare delle cose incredibilmente rumoriste, incredibilmente cattive, non si ammorbidiscono mai, anzi elaborano sempre dei linguaggi molto devianti. In questo senso riescono sempre a rinnovarsi, come d'altronde anche i primi lavori di Nate Young, da qualche anno sta facendo chiaramente una pletora, come poi gli altri Wolf Eyes, come gli stessi appunto, lo stesso gruppo madre, cioè lavori su lavori, tutto insomma con una dimensione piuttosto deviante, anche proprio la ricerca di una discografia sterminata che va da vari supporti a varie attitudini, con Regression volume 2, tra l'altro copertina eccezionale che riprende gli horror erotici degli anni, è vero, 70, sì, un po' alla Jess Franco, si recupera un forte senso analogico dell'elettronica, un rumorismo pre-noise, pre-industrial, così, quindi cercando così mondi anche abbastanza fantastici, tornando su delle fantasie morbose, sì, e vagamente anche si fa insomma con una fantascienza mischiata all'horror un po' assurdista. Nate Young. Uno dei grandi capolavori e uno dei grandi maestri dell'elettronica, dell'elettronica e soprattutto di un'elettronica assolutamente geniale, nel vero senso della parola, visto che ha affiliato veramente tanto genie di artisti che possono andare dal techno pop. Avete sentito quasi delle ritmiche che potevano ricordare i primi anni 80, appunto legati al techno pop, come a sonorità drone elettroniche o a strutture parajazzistiche, quindi legate anche a alcune delle situazioni d'avanguardia che prevedevano, insomma, anche il free jazz che incontrava certa composizione contemporanea, come certo anche approccio poi che Morton Subotnick, di lui stiamo parlando, sarà fondamentale per il rock. Non è un caso, tra l'altro, che il pezzo che abbiamo in sottofondo, Silver Apple of the Moon, dà sia il titolo a una storica formazione di psichedelia come Silver Apple, incredibile, che hanno inventato, insomma, i Suicide, prima dei Suicide, con una ritmica psichedelica deviante, assolutamente martellante, che ricordava poi appunto quello che poi dopo si svilupperà con lo storico duo newyorkese, e anche ad esempio influenzato il post rock, se pensiamo ai Laika, che proprio chiamarono un disco Silver Apple of the Moon, proprio la dice lunga anche su proprio le influenze poi culturali che ha avuto Morton Subotnick. Noi l'abbiamo preso non da quello storico lavoro che appunto fu fondamentale nel 67 per quello che poi avvenne da lì a brevissimo con le psichedelie più spinte, appunto Silver Apple, ma anche deviazioni incredibili di Grateful Dead insieme a Tom Constantine, che inventavano Dark Star, quindi elementi insomma elettronici che entravano dentro le psichedelie, ma anche di Jefferson Starship. Molte formazioni appunto attinsero da Morton Subotnick, molta attitudine al free rock fu proprio spinta da Silver Apple of the Moon. The Wild Ball, che del 68, sicuramente meno conosciuto come disco, anche se disco forse più anche più ardito di Silver Apple of the Moon, dove appunto si va veramente a costituire quello che diverrà poi per buona parte l'elettronica, i riferimenti di un'elettronica che non perde di vista la composizione, anzi, come dire, la stessa ricerca appunto timbrica sull'elettronica diventa compositiva, diventa metodologia nuova dentro il lavoro di Morton Subotnick. Vabbè, non lo stiamo qua a ricordare, accenniamo soltanto al tape music del Center di San Francisco, dove sono nati, ecco, tanto per dire, Terry Lille e Paulino Riveros, tanto per citare così nomini piccolini, o Steve Reich, ecco, gente che passava di là, che poi tutti si sono scordati, ecco. Questo è Morton Subotnick, che ha iniziato appunto insieme a Don Buchla negli anni 50 a lavorare proprio sugli aggeggi elettronici, poi insomma ha creato di fatto delle musiche prima come ingegnere, poi come appunto anche compositore. Eh sì, un grande nome che oltretutto era da un po' che non passava da 451 frammenti sonori, ma il nostro pensiero rimane comunque nei suoi confronti, perché è stato veramente un personaggio fondamentale per moltissima musica elettronica e non solo. E appunto, avendo anche toccato in parte, possiamo dirla, la musica contemporanea attraverso Subotnick, quella free electronics passa anche attraverso la contemporanea e non solo, e vedremo anche nel corso del percorso di stasera che attraverserà anche altri lidi, e free electronics attraversa invece un progetto importante della scena noise americana, della nuova scena americana, anche se la formazione è nata già nel 1992 alla Webster University. Parliamo di Panicsville, formazione sicuramente importante, che vede la presenza in questo progetto di ben tre personaggi, studenti, appunto, dato che appunto è nato il progetto proprio per l'università: Andy Ortman, David Fourquet e Ryan Kohler, che hanno creato appunto questo progetto, che poi soprattutto negli anni zero ha espresso maggiormente le proprie capacità compositive, le proprie deflagrazioni sonore attraverso un noise, un rumorismo estremamente raffinato per certi versi, anche se può sembrare anche paradossale, ironico, anche molto ironico. E in questo senso l'abbiamo voluto anche accostare su Botnick, perché dal punto di vista compositivo e non solo, anche dal punto di vista prettamente sonoro, c'è un'attenzione, una ricercatezza particolare da parte di questa formazione, che si avvicina anche come attitudine sicuramente a molta della contemporanea che ha attraversato in questi 10 anni 451 frammenti sonori, pur rimanendo ad un impatto sonoro e anche dal vivo estremamente punk per certi versi, con delle costruzioni anche paradossali, mascheramenti, bende e altre provocazioni, bende ospedaliere e altre provocazioni. Formazione di Minneapolis, fondamentalmente, che ha fatto uscire diversi album negli anni zero, soprattutto per un'etichetta che abbiamo anche già ritrovato in alcune occasioni, la Nihilist, che oltretutto è un'etichetta che io particolarmente sto ultimamente seguendo, anche per certi autori che amo ma che non voglio citare, perché sennò poi Max mi dice, ecco, come al solito, sempre quello è rimasto basito, anche lui non riesce a capirlo. Vabbè, rimaniamo con questo dubbio. Vabbè, dillo, che ne so, a sto punto svela il segreto, no? Raglani, no? Che l'abbiamo messo in 80.000 SARS. No, Raglani, tra l'altro non è ancora, insomma, come dire, sulla bocca di tutti. No, vogliamo, quello no. Adesso, quello no. Tra poco, insomma, giriamo in via Indipendenza, vogliamo sentire Raglani, Raglani, gente in mezzo alla strada. Sentiamo l'ultimo di Raglani. Infatti, mi sembra molto possibile. Comunque, appunto, abbiamo selezionato un album, diciamo, a metà del guado del percorso sonoro di Panicsville. La album del 2004 Perverse, che appunto è appunto un'idea importante del lavoro sonoro improvvisativo, e non solo, perché c'è un approccio proprio free all'elettronica e non solo all'elettronica da parte di questa formazione. Saranno due tracce, la prima più rumorista e più dentro un'idea contemporanea, la seconda invece molto più vicina a un gioco ironico e provocatorio. Tra l'altro poi torneremo su Andy Ortman, sì, diciamo, che è proprio uno dei Panicsville. Infatti. Divertitevi, adesso c'è da divertirsi come. eccezionale sicuramente questo doppio brano, eccezionale veramente, eccezionale, sì, un po' alla, è un po' alla battantuono, impro battantonesca, eccezionale, un po' Pollino Banfi, è un po' che beh, so, potrebbe essere interessante accostare Lino Banfi e Diego Battantuono a queste musiche. Free Electronics dunque è passata attraverso questa ottima e importante formazione degli anni zero, formazione appunto che ha dato i Natali insieme a tanti altri progetti, la nuova scena noise americana che insomma molti conoscono attraverso i grossi nomi già citati all'inizio della trasmissione, Wolf Eyes, Prurient and Company Malata, and Company, Bad Company, Bad Company, bravo. Penixville dunque, formazione appunto americana, dall'album Perverse del 2004, due facce differenti in questi due brani del loro approccio musicale all'elettronica libera e alle improvvisazioni e non solo. Sì, beh, andando così a concludere la prima parte di 451, un approccio decisamente free elettronico, libero, quello di Floris Van Hoof, belga, direi abbastanza giovane, insomma, trentina, e con già un po' di lavori alle spalle, chiaramente, insomma, qua si parla come buona parte, insomma, del materiale che passa appunto dentro 451, tra cassette, file, MP3, CDR, registrazioni fatte quasi in fuori, insomma, in cantina, sì. E quindi insomma di fatto, insomma, materiale che potete trovarlo, ma più che altro sulla rete di Floris Van Hoof, anche se poi appunto adesso negli ultimi periodi qualcosina di un po' più formale si trova. Questo è un disco del 2012, Cyclo Confusion, parte della Crack, che non conosciamo, comunque già il nome dice tutto, insomma, infatti, Crack già ispira. Sì, infatti, e in effetti è un mondo piuttosto, insomma, alterato quello di Floris Van Hoof, molto anch'esso ironico, molto così giocherellone, con varie faccende che si mischiano, ma anche insomma un buon approccio anche noise, di una certa sostanza, di una certa cattiveria anche lui. E ci andiamo poi, a sentire, sì, poi ci poi sentiamo, ci diamo, andiamo alle lezioni dopo andiamo alle lezioni, ci diamo, perché tra bacini, poco c'è il Festival delle Crocette la prossima settimana. Il Festival delle Crocette, che è fondamentale, bacini, crocette, bacini e crocette, insomma, e tanto amore, e tanto amore, tanto per amore, nulla, e no? Fantasia poi, insomma. Floris Van Hoof. Mm-hmm.